oggi credi di più. Credi ancora che il cielo possa cadere giù. Credi sempre nel futuro, in un mondo nuovo. Tutto è così diverso, dimmi oppure no. Pensi che il mio sorriso sia diventato giallo. Parlami, io ti credo, finché non canta il gallo. Stupida è la guerra, oppure quelli che la fanno. Tu dici che è già sera, credi o non lo so, che giorno è? Giorno è volata via, questa vita è mia. Che giorno è? Che giorno è cambiato, sai, tutto intorno a noi. Ho il vestito più nuovo, ma credi non è il mio, che se appena mi muovo avverto un crepitio. Io non ho la stoffa, il coraggio d'essere uomo. Provo sì, ma stanne certa che mi strapperò. Dentro me il cimitero delle passioni mie, dove da ragazzino scavavo fantasie. Lì riposano i miei sogni, lì riposeranno. Scura è la notte immensa, questa mia viltà. Che giorno è? Che giorno è? Che giorno è? Che giorno è? Non è passato, sai, vento sopra noi, e più ci penso. Sai.